I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. L'Unione Europea è impegnata in una difficile operazione di contrasto all'elusione fiscale, in particolare verso le grandi multinazionali che non pagano tasse sui profitti laddove i profitti vengono prodotti grazie alla loro capacità di sfruttare al meglio i buchi, le debolezze delle normative fiscali nazionali. Il caso Apple è l'esempio più recente, con l'Europa che ha messo nel mirino l'Irlanda per il trattamento di favore concesso all'azienda americana, grazie al quale l'azienda americana stessa ha potuto risparmiare circa 13 miliardi di tasse in poco più di un decennio. Sempre parlando di tasse, c'è un altro fronte che vede l'Unione Europea ancora in difficoltà. Uno studio della Commissione Europea ha stimato in 160 miliardi di euro il totale dell'IVA che ogni anno viene evasa all'interno dell'Unione, il che conferma che ancora poco si è fatto per sconfiggere frodi e truffe sull'imposta sul valore aggiunto, che, ricordiamolo, è un'imposta comunitaria che funziona con regole identiche in tutta l'Unione. Le regole sono identiche, ma l'evasione non è identica. Neanche a dirlo, l'Italia è il paese con la più elevata evasione dell'IVA, con un tax gap, cioè la differenza tra l'IVA attesa e quella effettivamente pagata, di quasi 37 miliardi di euro. Un dato in miglioramento che si riduce un po', visto che nel 2013 sfiorava il totale di 40 miliardi, ma che conferma una cosa: quando si tratta di competere sul terreno dell'evasione fiscale, non siamo davvero secondi a nessuno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il D-Day dell'Apple è arrivato. La presentazione della nuova linea di iPhone ha catturato l'attenzione non soltanto di milioni di appassionati e di fedelissimi del telefonino della Apple, ma soprattutto dei mercati finanziari. Gli ultimi risultati non sono stati così brillanti come in passato e soprattutto, come dicono gli analisti, a comprare l'iPhone è stata la metà delle persone nell'ultimo trimestre rispetto al periodo passato. Ma che cosa sta succedendo? Un po' l'ombra sta calando sulla novità, concorrenti come la Samsung stanno spingendo con prodotti analoghi, ma soprattutto si sta stringendo il pool di consumatori disposti a spendere cifre così elevate per avere sostanzialmente lo stesso prodotto di volta in volta. Per la Apple, insomma, le scelte sono difficili, ma soprattutto la scelta strategica è quella di decidere se continuare a spingere sul mercato consumer o se rivolgersi verso il grande mercato delle imprese. L'anno scorso la Apple ha realizzato 25 miliardi di dollari di ricavi soltanto con i servizi alle imprese, grazie all'alleanza con IBM e con altri giganti del settore informatico, sta sostanzialmente candidandosi a diventare l'interfaccia dei servizi finanziari e soprattutto della gestione delle comunicazioni telematiche delle grandi e delle piccole imprese. Insomma, il mondo sta cambiando, la novità dei tablet e degli iPhone sta cominciando a spegnersi e, per sostituirlo, ci sarà soprattutto un mondo fatto di tecnologie di comunicazione rivolte al mercato del business, cioè agli affari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.